e all'inmila e lì gestisci un lanciano di Yamia. 24 mattino. E allora, eccoci qua a leggerla. Alle 7:18 minuti è il momento della rassegna stampa. Siamo nella lettura dei giornali qui a 24 mattino. Caro Peter Pescapè, andiamo a capire che ci raccontano oggi. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo ormai in un marzo inoltrato, giovedì 2 marzo, con i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore, effetto Trump, Wall Street record, verso un altro aumento dei tassi Fed, questa è l'apertura dopo il discorso al congresso del presidente americano. Ma quasi tutti i giornali aprono sulla questione dell'arresto dell'imprenditore Alfredo Romeo, di questo appalto, l'inchiesta Consip e quello che tocca soprattutto la famiglia Renzi nel papà Tiziano. Così Romeo arrivò ai politici, all'apertura del Corriere della Sera. La procura Tiziano Renzi si faceva promettere soldi, lui risponde: attacchi vergognosi. Repubblica, corruzione ad altissimo livello, arrestato l'imprenditore Romeo. Il Messaggero, l'arresto che scuote la politica, risponde in qualche modo idealmente il Giorno, l'arresto che scuote Renzi. La Stampa, inchiesta Consip, nelle carte spunta il nome di Renzi. Mentre il Fatto Quotidiano, arrestato Romeo, tangenti a Consip e 30.000 euro al mese promessi a Babbo Renzi. Per la verità, un pizzino dell'arrestato fa tremare i due Renzi. Il Giornale, papà Renzi nei guai seri, si faceva promettere soldi. Mentre il Manifesto, giungla d'appalto, arrestato per corruzione Alfredo Romeo, perquisite le abitazioni dell'ex AN Italo Bocchino e Carlo Russo, sodale di Tiziano Renzi, tutti indagati a vario titolo nell'inchiesta Consip. Come vedete, diciamo che le aperture sono quasi tutte declinate a questa inchiesta. Vedremo. Intanto c'è un sondaggio che il Messaggero ha commissionato alla SVG sul tema eutanasia, visti anche i casi, visto l'ultimo caso, gli ultimi due casi per la verità di italiani che sono andati in Svizzera per il suicidio assistito. Il sondaggio sul fine vita, pagina 7 del Messaggero, Marco Ventura: il 74% degli italiani dice sì all'eutanasia. Questo è un sondaggio che, per però precisazione della stessa SVG, si dice è stato fatto sull'onda ovviamente della notizia di DJ Fabo, che si è dovuto recare in Svizzera per porre fine alle sue sofferenze attraverso il suicidio assistito. E si è chiesto a 1.000 italiani: secondo lei sarebbe giusto che questa pratica fosse consentita in Italia? Quindi l'onda emotiva sicuramente può anche influenzare. C'è da dire poi che il suicidio assistito non è l'eutanasia, ma ormai si fa quasi noia a dirlo, perché anche nell'articolo c'è un po' di confusione riguardo. Comunque si racconta: i sì prevalgono più tra gli uomini e nel nord-est, Trentino, Veneto, Friuli, Emilia Romagna, più tra i baby boomers, cioè la classe 50-60, i figli del 77, e ovviamente prevalgono più a sinistra. I no all'eutanasia pescano qualche consenso in più tra i figli dei baby boomers, cioè i 35-44 anni, più tradizionalisti dei genitori, pescano nel centrodestra come ambito politico e tra i cattolici, anche se 8 cattolici su 10 sono comunque favorevoli a una legge sul fine vita. Quasi un plebiscito dunque questo 74%, che conferma la tendenza degli italiani a abbandonare le posizioni di intransigenza ideologica contraria alla dolce morte. Dunque, secondo il Messaggero, con questo sondaggio SVG, il 74% degli italiani dice sì all'eutanasia. C'è un altro caso etico che ha fatto discutere in questi giorni, cioè la decisione del Tribunale di Trento, contro quale ci sarà tra l'altro un ricorso in appello della stessa Procura di Trento. Allora, la decisione è quella di riconoscere due papà, entrambi papà, diciamo, due papà, due uomini che tramite la maternità surrogata hanno avuto due figli che hanno 7 anni, due gemelli che hanno 7 anni ora, uno è il genitore biologico, l'altro evidentemente no, ma la decisione del Tribunale di Trento è di riconoscere anche il secondo come genitore al pari del primo. Genitori gay, boom di ricorsi ai giudici, sono sempre sul Messaggero. Valeria Arnaldi racconta che soprattutto nello studio di questo avvocato Alexander Schuster, che ha assistito questa coppia gay, e beh, dice: ora solo nel mio studio ho già qualche decina di coppie con le carte in regola per affrontare il giudizio, e nelle ultime ore ho ricevuto molte richieste da parte di altre coppie, seguo questi casi in tutta Italia e all'estero, parlo solo per il mio studio ma conosco tante situazioni pure altrove. La speranza ora per tutte queste coppie è quella di vedere nel precedente giudiziario trentino un principio che vale per tutti. Racconta l'avvocato: il principio affermato nella sentenza è quello neutro e plurisecolare, per cui si cerca di allineare i risultati di diversi ordinamenti in tutti i paesi ove non ci sia nulla di contrario all'ordine pubblico. In questo articolo di Valeria Arnaldi, a pagina 6 del Messaggero, dunque, genitori gay, boom di ricorsi ai giudici dopo la decisione a Trento, già pronte decine di nuove richieste. Abbiamo sentito nel giornale radio che c'è un caso alla commissione voluta dal Vaticano che deve indagare sulla tutela dei minori e sui possibili casi di pedofilia nella Chiesa. È la Commissione Pontificia per la Tutela dei Minori. Il caso è che l'irlandese Mary Collins, membro di questa commissione, in passato vittima di abusi sessuali da parte di un sacerdote, si è dimessa dicendosi umiliata e frustrata nel vedere il lavoro suo e quello dei colleghi vanificato, respinto dai dicasteri della Curia Romana, che dovrebbero invece sostenere l'organismo creato dal Papa nel 2014 e guidato dal cardinale arcivescovo di Boston, Sean O'Malley. Preti pedofili, la Curia non collabora. Questo è il titolo di Repubblica. Su Repubblica c'è un'intervista alla donna chiamata dal Papa a contrastare questo fenomeno, a Mary Collins. Paolo Rodare la intervista. Non potevo restare, dice lei. Dopo 3 anni, vedere continuamente che nella Curia Romana c'era chi non favoriva il nostro lavoro, chi in sostanza lo boicottava, senza rispondere anche alle richieste più elementari che venivano avanzate, mi ha gettato in un profondo sgomento. Ho provato anche vergogna e così ho deciso di dimettermi. La voce ferma, pacata di Mary Collins, irlandese, abusata sessualmente quando aveva 13 anni da un sacerdote, non lascia trapelare alcuna emozione mentre parla al telefono con Repubblica. Fiore all'occhiello della commissione antipedofilia voluta da Francesco, unica vittima rimasta nell'organismo e unica donna membro, ha deciso di andarsene perché, dice lei, nella Curia Romana le resistenze erano troppe, la misura era colma. Ma chi esattamente boicottava il suo lavoro? Non voglio fare nomi, risponde lei, perché non intendo sfavorire il lavoro della Commissione Vaticana, per il quale ancora nutro speranze e aspettative. In ogni caso, come ho anche scritto nel momento in cui ho deciso di lasciare l'incarico, le richieste che facevo pervenire alla Congregazione per la Dottrina della Fede non trovavano risposta, erano quasi sempre disattese. In particolare mi ha ferito il fatto che la raccomandazione della Commissione di istituire un tribunale per giudicare i vescovi negligenti, approvata dal Papa, non abbia avuto alcun seguito. A questo punto chiede Repubblica con Paolo Rodari: ma secondo lei Papa Francesco vuole combattere davvero la pedofilia? Credo fermamente di sì, credo in lui, nel suo lavoro, ma non capisco perché tante resistenze. Francesco fin dall'inizio è stato sincero, ha preso decisioni chiare nel senso della tolleranza zero, ma intorno a lui le cose non procedono come dovrebbero e tutto ciò non è corretto. E quindi se ne va, la vicenda è su tutti i giornali. E certamente, è una battuta d'arresto per questa commissione. Mondo della scuola, invece, questa notizia mi ha molto interessato, mi ha molto colpito, mi ha anche un po' stupito. Maria Corbi la racconta a pagina 14. Siamo a Cassino. Dove succede questo? È il titolo di pagina 14 della Stampa. Fa pipì e sporca il pavimento. L'insegnante lo obbliga a pulire e finisce a denunce. È una storia capitata a Cassino. Si mescolano bullismo, paura, maleducazione, incapacità dei professori di trovare un dialogo con gli studenti e anche di genitori che invece di andare dal preside vanno dall'avvocato e denunciano. Tutto accade martedì nel bagno di una scuola media, dove un ragazzo fa pipì fuori dalla tazza. La fa fuori dal vaso, insomma, come si suol dire. Quando torna in classe, la prof viene informata e lo affronta. Lui nega, lei insiste, non molla. Anzi, avrebbe detto all'alunno che dall'esame del DNA si sarebbe risaliti al responsabile. Cioè, vi rendete conto? L'ha minacciato così col DNA. Il dodicenne, in questa situazione, davanti alla prova del DNA, crolla e confessa il crimine. Dice, sì, è vero, ho fatto la pipì fuori dalla tazza, ma perché hanno aperto la porta per scherzo dei compagni mentre mi tiravo su gli slip e mi è uscita un po' di pipì. Nulla da fare, la professoressa decide di punirlo con una nota ordinandogli di andare in bagno a pulire, accompagnato da un bidello. Il ragazzino torna a casa, dice tutto a mamma e papà. Mamma e papà ascoltano e dicono, è incredibile, la sorella lo difende, ma se è così pulito che quando è a casa qui si siede sulla tazza pur di non farla fuori, e decidono di andare dall'avvocato. Ma non è una storia straordinaria, sarebbe un romanzo da raccontare. Ragazzi... la scuola si trincera ora nel silenzio, non smentisce l'accaduto, però dice che qualcosa è successo. Il DNA della pipì. Sul DNA della pipì direi che, caro Peter Bescapè, abbiamo raggiunto il culmine. Fa pipì, sporca il pavimento, l'insegnante lo obbliga a pulire. Va bene, dai, siamo all'articolo invece che mi fa pinzare della giornata. L'articolo da Mani sul Volante. Sicilia, avete visto qualche giorno fa la lotta di PIF al fianco dei disabili gravi, le urla per cercare di incontrare Crocetta, perché difendeva i casi di Alessio e Gianluca Pellegrino, due portatori di handicap, difendendo loro, difendendo i diritti ovviamente dei disabili gravi di avere un'assistenza che la legge dà loro diritto ad avere. Ebbene, dopo questa polemica, quindi va dato merito a PIF di averla portata alla luce in maniera così veemente, in Sicilia hanno voluto vedere com'è la situazione delle assistenze H24, cioè 24 ore su 24, ai disabili gravi. E cosa si è scoperto? Sicilia, sanità caos, assistenza H24 anche per i morti. Delle rivelazioni nel rapporto dell'azienda sanitaria di Palermo si scopre che ci sono casi di assistenza, come per esempio a Misilmeri, a Partinico, anche a morti. E questo perché? Ovviamente è un'assistenza fittizia, perché il timore che dietro questo ci sia... il sospetto, ci sia la possibilità dei comuni di ottenere così maggiori quote di fondi statali per l'assistenza, da girare poi alle cooperative che gestiscono i servizi per i disabili, per cui denunciavano, che ne so, assistiamo 125 disabili, ma 20-30 di questi erano già morti da tempo. E intanto si cuccavano i fondi. Eccolo qui, Lara Sirignano sul Messaggero, la sanità caos in Sicilia, l'assistenza anche per i morti. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Albino Milan, il lamentatore seriale dell'informazione. Dai, te non ti svegli tanto presto, Milan, via. Dai, su, effettivamente, le 5 è un orario in cui gli uccellini già cinguettano da un bel po'. Allora, bisogna parlare di questa inchiesta giudiziaria che ha portato in cella l'imprenditore campano Alfredo Romeo, arrestato per corruzione, questa è l'accusa. Intanto mettiamo i punti sull'inchiesta, appunto. Ivan Cimmarusti e Sara Mona ci raccontano tutto a pagina 7 del Sole 24 Ore. Romeo in cella, nuove accuse a Tiziano Renzi, questo è il titolo dell'articolo. una infiltrazione criminale in Consip SPA, cioè la centrale d'acquisti della pubblica amministrazione, per controllare l'appalto denominato Facility Management 4, una maxi commessa da 2,7 miliardi di euro. L'immobiliarista napoletano Alfredo Romeo si sarebbe mosso su più livelli per ottenere 4 di questi 18 lotti, promettendo a Tiziano Renzi, cioè il papà di Matteo Renzi, e all'amico Carlo Russo l'erogazione di somme di denaro mensili per mediare sull'amministratore delegato della Consip, Luigi Marroni. È questo, in sintesi, il contenuto dell'inchiesta della Procura di Roma, che ha chiesto e ottenuto l'arresto in carcere di Romeo, accusato di concorso in corruzione. Avrebbe pagato 100.000 euro al dirigente di Consip Marco Gasparri, definito il prototipatore, in quanto veicolava bandi pubblici in favore dell'imprenditore. In un'intercettazione dice di Romeo: mi disse che si era rivolto al massimo livello politico. Dunque, i protagonisti sono Romeo in carcere, poi c'è anche Italo Bocchino, ex parlamentare. Ieri è stata fatta una perquisizione domiciliare per l'ex deputato di AN, divenuto consulente di Romeo. Gasparri, Marco Gasparri, non il Gasparri senatore, Marco Gasparri, appunto, della Consip. L'ipotesi di corruzione è relativa alla consegna di somme di denaro al dirigente Consip Marco Gasparri per ottenere appalti cuciti su misura. Nell'ambito di questa inchiesta, Renzi, Tiziano Renzi, il papà, è indagato per concorso in traffico di influenze insieme a Carlo Russo, uomo ritenuto vicino a Romeo e ai Renzi, ed è indagato appunto Tiziano Renzi con l'accusa di promesse di denaro da parte di Alfredo Romeo una volta che gli appalti fossero andati in porto. Questo è lo scenario. E poi è un profluvio di articoli. L'avvocato è il prototipatore. Oh, se non sapete che diavolo sia questo prototipo, questo neologismo inventato dalla procura, è colui che si occupa di creare bandi e capitolati, cioè i prototipi. Il prototipatore sarebbe questo Marco Gasparri, architetto della Consip, che si occupa di creare i bandi. Allora, a proposito di Consip, le interviste. Parla l'ingegner Luigi Marroni, l'amministratore delegato. Lei, alla guida di Consip dell'estate 2015, chiede Fabio Bogo su Repubblica, sono a pagina 4. Lei conosce Tiziano Renzi? Certo, lo conosco. Nelle carte dell'inchiesta, che ha portato all'arresto di Romeo, si scrive che Tiziano Renzi, insieme a Carlo Russo, sfruttavano relazioni esistenti facendosi promettere utilità a contenuto economico. Ah, ma ha subito pressioni da Tiziano Renzi? Risponde l'ingegner Marroni: posso solo rispondere così. Da molti anni occupo posizioni che mi danno potere decisionale. Così la gente pensa di potermi chiedere favore e che io possa farli. Il segreto è uno: non fare questi favori, lasciare che te li chiedano e non farli, anche se dire no magari comporta un prezzo. Poi dice lui: la verità è che ho presentato le dimissioni, ho chiesto un colloquio col ministro Padoan e sono stato immediatamente ricevuto. Al ministro ho fatto presente gli estremi della vicenda in cui era coinvolta la Consip e il mio ruolo, dando immediatamente disponibilità a lasciare l'incarico. Il ministro mi ha confermato la fiducia e invitato ad andare avanti, cosa che faccio ringraziandolo per la stima. Romeo dice: ho pagato, altrimenti restavo fuori. Sono sorpreso per questa dichiarazione, risponde la D di Consip, che lascia intendere che sia una prassi diffusa. Non è così, anche se in base all'inchiesta qualcosa di illecito è successo. Noi su questa indagine siamo parte offesa. E poi dice: annulleremo le gare sospette. Questa è una pagina di intervista. Tra l'altro, una delle prove chiave dell'inchiesta sarebbe anche questo pizzino, il pizzino con i 30.000 euro al mese per Tiziano. Questo è il titolo di pagina 3 del Fatto. In realtà, in questo pizzino c'è scritto i 30.000 euro per mese per T puntato. È Tiziano? Taratata? Non si sa, questo dovranno ovviamente stabilirlo gli inquirenti. Oppure due incontri con T, uno con L punto, e secondo gli inquirenti questo L punto, ricostruendo tutta la vicenda, potrebbe essere Luca Lotti, L, Lotti, Luca, ma anche Livorno, non so, Loretta, ecco, questo è il pizzino ovviamente sul quale gli inquirenti dovranno cercare di chiarire la vicenda. Il padre di Matteo Renzi: sono attacchi vergognosi, lo raggiunge in qualche modo Marco Gasperetti dal ritorno dal Canada, dove è andato a trovare il figlio Samuele e famiglia. Dice: spero che non sia un reato andare a trovare i nipoti, perché di questi tempi basta uno starnuto per essere sospettati di qualche cosa. Sono sereno, non ho nulla da nascondere, ho piena fiducia nella magistratura. E poi in serata fa una nota in cui scrive: ho 65 anni, non ho mai avuto un problema con la giustizia per una vita intera fino a 2 anni fa, quando sono stato indagato e archiviato da Genova. Nessuno mi ha mai promesso denaro, io ne ho chiesto alcunché. Gli unici soldi che spero di ottenere sono quelli del risarcimento danni per gli attacchi vergognosi che ho dovuto subire. Come dire, querelerò. E certo, però il timore si riassume, il timore politico di Renzi, che ieri, Renzi Matteo, questa volta, che non c'entra nulla in questa inchiesta, nel senso non è indagato, non ha fatto alcuna dichiarazione ieri, però il timore che questo deflagri e che questa inchiesta deflagri e lo coinvolga a livello politico. E se monta come il caso Etruria? Questa è una domanda che il Giorno mette a pagina 4 e che dà Renzi in ansia per le primarie, per questa inchiesta che potrebbe in qualche modo travolgerlo dal punto di vista politico. Anche Maria Teresa Meli racconta a pagina 5 del Corriere della Sera i sospetti dei deputati renziani che ora temono l'accerchiamento, una sorta di viaggio in Parlamento per cercare di capire il timore di un'inchiesta che potrebbe in qualche modo ingigantirsi e creare un po' di problemucci. A proposito di indagati, no, nel senso, a proposito di inchieste, ci sarà qualcosa su qualche inchiesta. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, caro Alessandro Lilan. Potremmo anche, anche. Potremmo anche pensare così. No? Caro Teazza. Caro Teazza. Sì. Caro Lilan. Parliamo un attimo di questioni, diciamo, di tutti i giorni, molto quotidiane. Vorrei dire una cosa, precisando che non sto scherzando, per la dichiarazione IVA, per presentare la dichiarazione IVA, termine scadeva il 28 martedì, è stata riconosciuta una proroga al 3 marzo, cioè a domani. Vorrei precisare che è vero, è scritto proprio su norme e tributi, è stata data questa proroga domani. Di ben 3 giorni, domani. Sì. Quindi un prorogone, insomma. Ecco, vabbè, tutti i particolari per gli amici che devono presentare la dichiarazione IVA, naturalmente su norme e tributi che tu leggerai religiosamente. Ci sa. E religiosamente leggendo, caro Tilan, scoprirai anche che hanno adeguato il modello 730, le istruzioni, alle unioni civili. Non si parla più del coniuge, ma anche delle unioni civili. Un dettaglio interessante. Poi c'è un'ultima cosa, ma te la dico più avanti. Ti voglio dire che l'Unione Europea sembra ben disposta a un allargamento dello split payment. E tu dici, e quindi quel famoso 3 miliardi 400 milioni, chissà, potrebbe venire fuori un po' da lì, e un po', lo scriviamo nelle prime pagine del Sole 24 Ore, un pochino anche da tasse sui giochi e sui tabacchi e per i fumatori e i giocatori, quindi si sa che... Perché sospiri, sei fumatore? Io purtroppo sono fumatore, sì. Sei però anche giocatore? Non nemmeno vanto. No, giocatore no, guardo i giocatori anche di calcio soprattutto, ma non quelli delle slot. Mi hai distratto adesso, perché volevo ricordarti invece che oggi, essendo giovedì, c'è Casa 24. Casa 24 questa volta un servizio sulle case di pregio, cioè case molto costose. Tu che sei facoltoso potresti anche guardare dove ci sono le occasioni migliori per le case di pregio in Italia. E poi ti voglio anche segnalare invece che si sta trattando sui voucher, sai che sui voucher c'è l'ipotesi di un referendum. Ecco, l'idea, ne riferiamo nelle pagine imprese e territori che tu leggerai scrupolosamente. Oggi ti ringrazio che mi aiuti, prof, perché... Ti sto aiutando perché ho visto ieri che sei debole su questa cosa qua. Leggendo scrupolosamente apprenderai che si pensa di circoscriverli solo alle famiglie, quindi escludendo le imprese. Staremo a vedere, per adesso siamo, come dire, assolutamente alle trattative. L'ultima cosuccia che mi sono tenuto è: hai presente che siccome si unificava con il certificato di proprietà con la carta di circolazione c'era un risparmio, si attendeva un risparmio dal 2018? Hai presente? Calavano le imposte da pagare? E non è mica così, perché abbiamo l'ottimo Maurizio Caprino insieme a Gianni Otrovà, che ha guardato i decreti attuativi da cui viene giù quel risparmio, o dovrebbe venire, e non c'è, perché in realtà si dice non deve costare di più di prima. Cioè le due somme insieme, la somma nuova non deve essere più alta di quella di prima, quindi il risparmio sembra sfumare, ma su questa notizia che riguarda soprattutto gli automobilisti, che dirti se non traffico! Alessandro Milan, il Gigio Donnarumma dell'informazione! Vabbè, soprattutto l'altezza e la capacità di muoversi tra i pali. Allora, a proposito di PD, continua anche la vicenda del caos tessere al sud, l'ombra sulle primarie Dem, questo è il titolo per esempio del Corriere della Sera, pagina 10, perché? Perché a Napoli soprattutto c'è questo video diffuso da Repubblica di qualcuno che offriva 10 euro per tesserarsi al PD entro, credo, ieri o l'altro ieri, insomma l'ultimo giorno disponibile per iscriversi al PD. È nel mirino e nell'attenzione questo Michel Di Prisco, RAS delle tessere PD nel quartiere napoletano di Miano. Viene intervistato sia dal Corriere che da Repubblica. Dice al Corriere, intervistato da Simona Brandolini: ma quale sarebbe l'episodio contestato? Il fatto che qualche amico dice che la tessera la fa per me? Ma è chi gli avrebbe dato? È chi gliel'avrebbe anche pagata il problema? 10 euro? Di soldi non voglio proprio parlare, perché non è vero. Cosa volete da me? Cosa c'è di male se fanno la tessera del PD? Ma per il PD, perché sostengono Renzi, Emiliano, Orlando. Ma chi lo conosce Matteo Renzi a Miano? Sfido chiunque. Mi devono dimostrare che le tessere non si fanno per amicizia, vicinanza politica. Noi siamo gente semplice, questo è popolino. Io sono una persona per bene che aiuta chi ne ha bisogno. Tra l'altro racconta il Corriere che questo Michel Di Prisco è passato anche, è stato nel PD, ma una volta che è stato nel PD poi è stato anche in Forza Italia, poi nell'UDC, ma sempre con il cuore democratico. A Repubblica dice: sono un rottamatore, ora mi vogliono incastrare. A Repubblica dice: nella scissione io mi ritrovo nel PD renziano. Un personaggio che viene descritto dai giornali, lui dice la coscienza pulita, ma che viene descritto un po' personaggio un po' strano, del fatto che quando c'è sempre qualche vicenda di o voti gonfiati o di tessere gonfiate, c'è sempre questo Michel Di Prisco intervistato dai giornali. In tutto questo l'antimafia, la commissione antimafia ha sequestrato le liste dei massoni. Caro Peter Bescapè, sei preoccupato? Fa una faccia, come dire, già se sorridi vuol dire che è una mezza missione. Comunque l'antimafia sequestra le liste dei massoni. La commissione parlamentare ha deciso di sequestrare gli elenchi degli iscritti dal 90 oggi delle logge massoniche di Calabria e Sicilia nell'ambito dell'inchiesta sui rapporti tra mafia e massoneria. È Elena Polidori che racconta, pagina 7 del Giorno. Si tratta di elenchi del Grande Oriente d'Italia, della Gran Loggia Regolare d'Italia, della Serenissima Gran Loggia d'Italia e della Gran Loggia d'Italia degli antichi liberi accettati muratori. Per acquisire la documentazione e procedere alle perquisizioni, la commissione ha delegato la Guardia di Finanza di Roma, visto che le logge si erano rifiutate di dar seguito alla richiesta di trasparenza. Si tratterebbe comunque solo di un primo passo. L'idea è vedere se c'è un rapporto tra, pare ci sia, massoneria e mafia, soprattutto in alcune province, soprattutto in alcune zone, quindi in Sicilia e Calabria l'antimafia sequestra le liste dei massoni. Vedremo che succede con queste liste. In tutto, visto che si è parlato di aborto nei giorni scorsi, la vicenda del San Camillo di Roma, il bando, oggi troverete questa storia sulla Stampa e sul Giorno, per esempio c'è una pagina: io respinta da 23 ospedali. Parla una donna, racconta la sua odissea respinta da 23 ospedali prima di poter abortire in extremis entro il termine di legge dei primi 90 giorni di gravidanza. È accaduta a Padova una donna di 41 anni, madre di altri due figli, che era rimasta incinta, ha deciso di abortire e partendo dalla sua città di residenza a Padova ha provato in tutte le cliniche pubbliche del Veneto, poi fino a Trieste, Bolzano, ma da tutte l'esito infausto degli appelli. Da quella principale legata alla difficoltà a reperire un medico non obiettore, ai tempi di attesa che non corrispondevano all'urgenza di intervenire nei primi tre mesi, la burocrazia, alla fine l'epilogo favorevole risolto grazie all'intervento della CGIL che ha forzato l'istituzione a individuare una soluzione repentina. La vicenda raccontata da Lorenzo Padovan sulla Stampa, ma anche sul Giorno a pagina 9, c'è, eccola qui. Come non c'è invece la sicurezza? È una vicenda un po' strana che mi sta incuriosendo tantissimo. Riguarda Adriano Celentano e Claudia Mori, che da due giorni raccontano di strane infiltrazioni di persone che entrano nella loro villa a Galbiate e poi spariscono di notte, entrano nel parco e spariscono. Nonostante la villa sia controllata da guardie armate, sia blindata, antifurti, ma ci sono proprio personale, entrano ed escono, spaccano i finestrini di due macchine ed escono. Una volta sono entrati, dice Claudia Mori, hanno spaccato i finestrini della macchina, non hanno rubato le borse dentro e sono fuggiti. E gli hanno detto, e com'è che le persone, i vigilanti se non li hanno presi? Erano veloci come lepri. Cosa sta succedendo nella villa di Adriano Celentano e Claudia Mori? Non dormo da due giorni a pensare a questa cosa. Il raid nella villa di Celentano. Parla ora Claudia Mori, intervistata da Paolo Baldini sul Corriere della Sera, un'intera pagina. Dice, la situazione è anomala, strana. Ci sono intrusioni notturne. E poi succede quando io e Adriano siamo da soli, come se lo sapessero. È tutta una brutta storia. Non dobbiamo avere paura, ma servono leggi che tutelino i cittadini. Ecco, questa mi sembra la richiesta poi finale più sensata. Vabbè, insomma, che succede a casa Celentano, Claudia Mori? Ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Attenzione, Repubblica dedica un'intera pagina ai macachi. C'è una strategia chiara, quella del... Ma quei cacchio, i macachi hanno una strategia da clan. Se vengono attaccati si vendicano sui parenti di chi ha attaccato. È la strategia del clan dei macachi. Ma chi se ne frega!